Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuto a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Mulan del 1998 ed è considerato il 36esimo classico Disney. Il film si ispira ad una figura mitologica cinese, l'eroina Hua Mulan. Ed infatti la storia segue le gesta di questa ragazza, Mulan, che cerca di rispettare gli standard del ceto della sua famiglia, che è una famiglia benestante, e di conseguenza cerca di essere una ragazza nobile, che debba trovare un buon marito, una buona sposa, insomma. Purtroppo però la protagonista è poco incline a questo tipo di vita, essendo molto goffa, essendo un po' maldestra, poco femminile, e quindi si sente inadeguata e un po' esclusa. Nel frattempo il padre di Mulan è chiamato alle armi, dato che nel periodo della storia imperversava la guerra contro gli Unni. Il padre di Mulan però è stato ferito in battaglia e quindi è invalido, e la figlia è molto preoccupata per lui. Però la legge vuole che un membro maschile della famiglia debba andare in guerra. Mulan, disperata, alla fine prende una decisione drastica, ovvero quella di travestirsi da maschio e partire al fronte. Ovviamente senza far sapere niente ai suoi genitori. Giunta al campo di addestramento, Mulan e le altre reclute iniziano un durissimo allenamento condotto dal capitano Shang. La ragazza si troverà molto in difficoltà, essendo maldestra e soprattutto dovendo nascondere il suo segreto, ovvero che era una donna, dato che questa cosa era punibile con la morte. Ma grazie alla sua determinatezza e alla sua perseveranza riesce a finire l'addestramento con successo. E quindi partirà anche per una missione. L'esercito cinese però subirà un'imboscata da parte degli Unni e sarà quasi annientato. Ma grazie a Mulan riescono a sbaragliare l'esercito Unno. Infatti la ragazza aveva con sé dei petardi, dei fuochi d'artificio, e li farà scoppiare in direzione di una valanga, dato che erano in montagna, e in questo modo causerà una valanga che investirà l'esercito Unno. Il suo atto eroico però causa a Mulan una grave ferita sul costato, il che ovviamente durante le cure la farà uscire allo scoperto e quindi deve essere giustiziata come voleva la legge. Ma grazie al suo atto eroico il capitano Shang, che prova anche un affetto per la ragazza, decide di risparmiarla e quindi l'esercito cinese partirà per la città imperiale per festeggiare la fine della guerra e Mulan verrà lasciata lì nell'accampamento. Però Mulan sarà l'unica ad accorgersi che in realtà l'esercito Unno non era sconfitto e che anzi stavano organizzando un'imboscata proprio alla città imperiale. E quindi lei da sola deciderà di salvare, insomma, l'intero impero cinese. Arrivata alla città imperiale, Mulan si troverà insieme ad altri suoi amici a cercare di salvare l'intera situazione e riuscirà ad isolare il capo degli Unni, a disarmarlo e a sconfiggerlo. Mulan verrà premiata per le sue azioni dall'imperatore cinese e potrà ritornare con la sua famiglia. Il film a livello di design vede dei disegni molto stilizzati e semplici, infatti si sono ispirati per realizzarli alla pittura cinese. Però benché il film appaia semplice visivamente, in realtà ha visto molto studio da parte dei produttori, soprattutto per quanto riguarda le scene di guerra. Tra l'altro gli animatori hanno anche messo a punto un software apposito per poter simulare le truppe in movimento, il software si chiama Attila. L'aspetto culturale del film è abbastanza curato, benché i registi, tra cui si annoverano nomi come Tom Bancroft, non essendo cinesi non hanno poi tanto esplorato l'ambito filosofico e religioso. Il film comunque è stato molto amato e apprezzato e ha vinto vari premi Oscar, tra cui per miglior film d'animazione e per la miglior sceneggiatura. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.